e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Mi piacerebbe cantare una canzone intelligente. E dopo la canzone intelligente è arrivato l'anticorpo intelligente. Costruito in laboratorio, sembra essere la soluzione per chi soffre di emicrania cronica. Il suo compito? Scovare per poi neutralizzare la sostanza fisiologica il cui eccesso è implicato nell'emicrania. In attesa di saperne di più su questo tipo di cura, che è stato ribattezzato dai media vaccino contro il mal di testa, vi invito a restare con noi per trovare una soluzione al vostro mal di testa, anche a quello che compare senza un apparente motivo. Ce ne sono più di 200 tipi, qual è il vostro? Allora aiutateci e aiutate alla vostra testa chiamando il nostro numero verde e dateci degli indizi precisi: quanto dura l'attacco, quanto è forte, a quali sintomi si associa, soprattutto come lo gestite. E ditemi, resistete o vi affidate alla pillola? Un anticorpo che ci aiuti a rafforzare le nostre difese in materia di soldi, invece, proprio, a meno che non me lo dica tu, in anteprima mondiale è stato scoperto. C'è qualche laboratorio che sta studiando. Potremmo pensarci noi due, però, svoltiamo. Esatto, allora ce ne sarebbe bisogno, infatti. Spesso, proprio negli aspetti economici della nostra vita, ci sentiamo molto vulnerabili e non sappiamo cosa fare per rafforzarci. Questo ci porta a sviluppare delle paure. Ne abbiamo parlato anche ieri, se ricordate bene, anticipandovi che ci saremmo tornati oggi nella pagina di denari. Le notizie degli ultimi tempi non aiutano, mercati sul lotto volante, persone che perdono i propri soldi perché una banca più o meno viene dichiarata fallita e quindi banche che non ci sembrano più affidabili, risparmiatori che perdono quanto messo da parte perché investito nel modo sbagliato. L'elenco delle paure che sviluppiamo nelle questioni di denari è davvero lungo. Allora noi oggi vi chiediamo di condividere con noi la vostra all'800 24 00 24, anche se è una paura un po' irrazionale, ma è un pensiero che ritorna e non potete farci niente. Noi ne approfittiamo di parlare di questo argomento perché oggi con Il Sole 24 Ore esce la guida I Tuoi Soldi, una pubblicazione che è una vera e propria guida di educazione finanziaria, e ne parleremo nella seconda parte della puntata. Siamo di fronte a una vera e propria svolta per chi soffre di emicrania, un disturbo che colpisce ben 7 milioni di italiani, che potranno probabilmente dire addio al dolore che invade e limita la loro vita. Ne parliamo oggi col professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno Nicoletta, grazie dell'invito e bentrovati ai radioascoltatori. Professore, si parla di un vaccino contro il mal di testa. In realtà, questo l'abbiamo letto sui giornali, si tratta, come lei aveva anticipato, me lo lasci dire, qualche settimana or sono, proprio ai microfoni di Cuore Denari, di una nuova classe di farmaci che, a differenza degli altri trattamenti nati per altre malattie, casualmente rivelatisi poi efficaci anche per le cefalee, sono stati invece studiati ad hoc, proprio con l'intento di risolvere il problema, e sembra che abbiano fatto centro. Perché, come abbiamo detto in apertura, intelligentemente riescono a intercettare e neutralizzare la sostanza che è responsabile degli attacchi emicranici. È corretto? Sì, è corretto, e c'è stata un'enorme ricerca alle spalle, perché questi anticorpi sono dei cecchini, ma per prima cosa occorre identificare contro chi sparare, e la sostanza che è stata identificata dal nome, come amo dire, impronunciabile, perché Como Genova Roma Palermo CGRP, è una sostanza che nell'organismo serve, noi non abbiamo sostanze inutili, ma nel soggetto emicranico si libera in eccesso intorno ai vasi delle meningi, che quindi si dilatano e diventano pulsanti, e ha anche una particolare attività, una particolare solerzia a far correre l'impulso doloroso dai vasi al cervello. Quindi, insomma, avere trovato degli anticorpi in grado di limitare l'eccesso è per noi una svolta epocale. La parola vaccino, lo dico sempre, è una parola sbagliata, perché vaccino a casa mia vuol dire mi faccio un'iniezione e non mi ammalo più di nulla. Non è così, non è un vaccino, però è certamente una innovazione straordinaria, perché per creare, dicevamo, l'anticorpo ci volevano delle nuove conoscenze sul mal di testa, e sembrerà strano, l'ultima medicina uscita fuori solo con l'indicazione di prevenire il mal di testa, ha più di 40 anni e sono cambiate molte teorie e molte cose. Quindi, professor Barbanti, non possiamo parlare di vaccino, questa nuova classe di farmaci riesce a giocare d'anticipo, evitando quindi che si verificano quelle condizioni che innescano l'attacco. Esattamente così. Credo che possa essere interessante, anche perché si è in questo momento all'ascolto in macchina, capire cosa succede durante l'attacco emicranico. Durante l'attacco emicranico, che certamente nasce dentro il cervello, non nel nostro collo, nell'artrosi cervicale come si pensa, nasce a un certo momento una scintilla, chiamiamola così, e sì, questa scintilla di eccesso di attività nervosa attraverso i rami del trigemino porta la scossa ai vasi, alle arterie che sono sulla superficie del cervello. Cosa fanno le arterie? Si offendono, si dilatano e si infiammano. Libera il trigemino una grande quantità di questo CGRP, contro il quale l'anticorpo cecchino appostato va a bloccare. Quindi è come se venisse messo in sostanza un limitatore all'eccesso di attività. Molto stimolante come idea. E poi l'altra cosa che affascina e tranquillizza il medico è che non leverebbe invece la quantità di CGRP che ci serve per vivere, perché certo, è una sostanza perché vitale. Lei ha detto che è assolutamente è utile, quindi diventa dannosa se è in eccesso. Sì. No? Sì. Un po' come il colesterolo, professor Barbanti, no? Esattamente così. Serve? Esattamente così. Allora, vede che volo pindarico. La cosa interessante è anche il modo di somministrazione, quindi non più pastiglie e gocce supposte, ma una sola iniezione che dovrebbe evitare o ridurre sensibilmente il rischio di attacchi per mesi e mesi. Forse da qui e per questa ragione la stampa parla di vaccino, no? Perché si vede questa iniezione, ci si immagina questa vaccinazione, questa iniezione sottocute e poi per alcuni mesi mal di testa, addio. È vero, dunque il fatto che sia una somministrazione mensile è di grandissima importanza per il paziente e per il medico. Noi abbiamo molte cure preventive che si prendono sotto forma di 4 compresse al giorno. Il paziente magari viaggia, dimentica la boccettina, la cura diventa irregolare e per lui è una schiavitù prendere tutti i giorni la pastiglia. Ma mettiamoci nei panni del medico della cefalea, che si vede arrivare un paziente che dice: beh, dottore, sa, la cura non ha funzionato granché, ma la domanda che dobbiamo farci è: ma l'ha seguita bene? Perché anche in perfetta buona fede, quante sono le volte che, preso da mille cose, ha dimenticato il numero corretto di compresse? Quindi, brutto termine inglese, compliance, aderenza terapeutica, con l'iniezione siamo sicuri che il paziente la faccia e la faccia regolarmente. Professore, a San Raffaele Pisana, dove lei dirige il centro per le cefalee, è stato arruolato il primo paziente in tutta Europa per il trattamento con anticorpi monoclonali anti-CGRP per la cura dell'emicrania cronica. Insomma, avete testato, sperimentato proprio questa nuova classe di farmaci di cui stiamo parlando oggi. Quali sono i risultati che avete raggiunto? Dunque, intanto io veramente sono estremamente orgoglioso dell'opportunità che la snellezza del nostro istituto scientifico e del gruppo straordinario di ricercatrici con cui io mi trovo ad operare ha consentito. I risultati, ovviamente, dei pazienti appena arruolati, è presto per saperlo, ma quello che noi sappiamo dalla letteratura dei volontari sani e dei primi studi che sono stati compiuti su 200 pazienti in 35 centri americani e che c'è una riduzione del 62% della frequenza e, sottolineo, effetti collaterali sovrapponibili al placebo. E chi potrebbe mai immaginare una cosa del genere quando le cure attualmente in corso o ti fanno dimagrire o ti fanno aumentare di peso? La seconda che hai detto, avrebbe detto quello di avanti, spesso. Oppure danno sonnolenza o fiacca o bocca secca e stizzi. Quindi, ragazzi, non è di poco, ovviamente la nostra speranza. Speranza è un conto, realtà è un'altra, però la sensazione è che ci troviamo di fronte a un qualcosa di importante, non a una così a un artefatto dei tanti, un riciclo di una vecchia cosa. Sembra veramente una nuova frontiera. Allora, ricordiamo che questo trattamento è stato studiato e pensato e sperimentato per soggetti emicranici cronici, cioè persone, pensate, che per almeno 15 giorni in un mese, negli ultimi 3 mesi, hanno avuto problemi con questo tipo di dolore. Ma in futuro probabilmente ci sarà anche qualche speranza anche per chi soffre di emicrania episodica. 800 24 00 24, l'emicrania è stata ribattezzata un po' la regina delle cefalee. Parliamo del mal di testa oggi insieme al professor Barbanti, cerchiamo di capire come affrontarlo. Ad esempio, è meglio resistere fino all'ultimo oppure prendere subito la pastiglietta? E il mal di testa passa solo e necessariamente con l'aiuto dei farmaci? Ci sono delle attenzioni preventive che possono evitarlo? Ci sono degli errori che involontariamente compiamo e che inducono magari nei soggetti predisposti proprio all'attacco a iniziare, quindi a scatenarsi? 800 24 00 24, ci aspetta già Luciano da Milano, a cui chiedo però di accompagnarci a sentire le informazioni sul traffico, e poi siamo tutti per lui. A tra poco. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e denari. Stiamo parlando di emicrania, ufficialmente la terza malattia più frequente del genere umano, pensate, dopo la carie dentale, che è al primo posto, e la cefalea di tipo tensivo al secondo. È una malattia molto invalidante e noi abbiamo aperto questa puntata di Cuore e Denari parlando di una nuova terapia che, stando ai risultati sperimentali, sembra destinata a rappresentare una svolta. La notizia che avrete sicuramente letto sui giornali parla di vaccino per l'emicrania. In realtà vaccino non si può chiamare, ma rende bene l'idea. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Piero Barbanti del San Raffaele Pisana di Roma, primo centro in Europa a utilizzare questa rivoluzionaria terapia per l'emicrania cronica. Ma oggi vogliamo dare modo a tutti voi di partecipare per imparare dai consigli del professor Barbanti a gestire un attacco. A chi non è venuto improvvisamente, no, un attacco di mal di testa, può scoppiare per mille ragioni diverse, dateci soprattutto indicazioni e indizi sul vostro mal di testa. 800 24 00 24 e rispondiamo, diamo il benvenuto a Luciano da Milano. Luciano, eccoci a lei. Pronto, buongiorno Luciano, benvenuto. Buongiorno. Grazie, prima di tutto completamente per la trasmissione. Grazie. Io volevo fare una domanda al professore. Random ogni tanto, che mi è capitato quando ero adolescente, poi per un po' di tempo non ho più avuto problemi, e ogni 2 o 3 anni mi succede un mal di testa terrificante sulla parte sinistra della tempia, un punto preciso, come se fosse un chiodo, mi compare in un secondo e mi scompare in un secondo, mi dura 2 o 3 ore, qualsiasi pastiglia che prendo non mi fa nulla e mi dura una settimana e 10 giorni, 2 o 3 ore di notte, 2 o 3 ore di giorno, sempre allo stesso orario per una settimana e 10 giorni. Non capisco perché una settimana sana, di passione, insomma, Luciano, quella che lei ci descrive. Ma una Monteresco delle anche degli occhi aperti, una cosa pazzesca. Non capisco perché faccio una vita sana, tranquilla, certo. Faccio sport. Perché è sempre un po' incomprensibile, vero? Un bel rompicapo il mal di testa, sembra una battuta ma è un rompicapo per noi ma anche a volte per gli stessi medici. Professor Barbanti, curiosa la storia di Luciano. Sì, ma credo che possa essere una storia a lieto fine quella di Luciano, perché il mal di testa violento che viene a orari fissi tutti i giorni in alcuni periodi e dura 2 o 3 ore, a casa nostra si chiama in genere cefalea grappolo. Ovviamente servono degli altri sintomi, l'occhio che diventa più lucido o che lacrima dal lato del dolore, la narice che magari si congestiona e soprattutto il paziente che, a differenza dell'emicrania in cui deve stare fermo, non riesce a stare fermo. Se Luciano ha alcuni dei sintomi che io ho detto in aggiunta ai suoi, vada in un centro cefalee, la Lombardia ne è piena di eccellente, troverà la cura da iniziare ai primi sintomi della sua fase negativa e camperà felice, felice lo è anche adesso, ma direi ancora più sano. Allora Fabio su Twitter, che ringraziamo e salutiamo, ci scrive: ma un vaccino, passiamo il termine prof, noi lo chiamiamo vaccino, ma anche per emicrania grappolo? Allora, l'emicrania grappolo non esiste. L'emicrania grappolo è una parola usata spesso dai pazienti. le acefale a grappolo è una cosa, l'emicrania è un'altra. E di solito il paziente chiama emicrania a grappolo, le emicranie molto gravi. Beh, allora possiamo dire a Fabrizio che sì, se la sua è un'emicrania ad alta frequenza, quindi almeno 15 giorni al mese, è un soggetto che nell'ambito dei prossimi 5 anni, perché questo credo che sia l'orizzonte temporale per avere poi la diffusione capillare nel mondo di questi prodotti, potrebbe essere un candidato. È ovviamente una previsione a spanna. Professore, chi soffre di emicrania, lo sappiamo bene, è disposto a tutto quasi per farsela passare. Negli ultimi tempi su internet si è diffusa la convinzione che la soluzione sia portata di mano, o meglio di orecchio. Un numero sempre maggiore di persone infatti pare abbia trovato sollievo in alcuni casi, facendo sparire completamente il problema, mettendosi un piercing al trago. È una bufala 2.0? C'è qualcosa di vero, professore? Intanto iniziamo a localizzare, no? Dov'è il trago, che cos'è e perché è tirato in ballo? Il trago è una parte dell'orecchio e l'auricoloterapia, secondo la medicina tradizionale cinese, ha importanti così correlati con il dolore. Non è una medicina che conosco, riferisco solo le cose che so. Però attenzione, personalmente credo che addirittura la superstizione possa essere una scienza se funziona, la cabola, bisogna essere liberal e aperti, ma attenzione a farvi mettere le mani addosso. Dico questo perché si stanno diffondendo nel nostro territorio pratiche chirurgiche del mal di testa, completamente prive di fondamento scientifico. Un appello a chi ci ascolta, fatevi mettere per iscritto che quella pratica è una pratica prevista dalle linee guida, confermata dalla scienza e che abbia un risultato garantito, perché vi garantisco non ve lo scriverà nessuno. La chirurgia del muscolo frontale che viene tagliato per l'emicrania manca di base scientifica, il che vuol dire sperimentare sull'uomo. Questo è inaccettabile in un paziente che in fondo è solo un cefalalgico e ha diritto a poter aggrottare le ciglia, cosa che non può più fare se gli viene tagliato il muscolo. Per non parlare di quelli che agiscono sulle vertebre, sull'atlante e sulle vertebre cervicali alte, addirittura con pratiche chirurgiche. Fatevelo mettere per iscritto, vedrete che la mano incomincerà a tremare, ma non quella del paziente. Quindi attenzione alle proposte di chirurgia del mal di testa, rischiano, non sono scienza ma probabilmente fantascienza o bufala, e questo è il messaggio che possiamo mandare ai nostri ascoltatori? Un messaggio un po' forte, se vogliamo lo addolciamo, ma non leviamo nulla alla severità di quello che diciamo, cioè le esperienze personali di bravissimi chirurghi rimangono esperienze personali, non possono essere definite scienza, a meno che non ci siano lunghe casistiche, perché attenzione, l'effetto placebo è una medicina. E l'effetto placebo può comparire anche se mi metto un giorno un casco da sci in testa e ci giro per Roma, perché quel giorno sono stato più attento forse a condurre la giornata. Attenzione a questo, è molto pericoloso. Allora, 800 24 00 24, volete venire a capo del vostro mal di testa? Allora, innanzitutto cerchiamo di non farcelo venire e una volta arrivati spegnerlo. Intanto rispondete a queste domande e poi ne parleremo col professor Barbanti nell'ultima parte della trasmissione. Andiamo, Carmelo. Nell'ultimo mese, quante volte hai sofferto di mal di testa? L'attacco ti viene all'improvviso, gradualmente, o si fa annunciare da alcuni segnali premonitori? Sapresti dirmi quali? Il mal di testa ti mette KO oppure è solo una fastidiosa compagnia che rende la vita difficile ma non impossibile? Sai riconoscere i fattori di rischio che ti fanno scoppiare la testa? Oppure l'attacco è imprevedibile? Allora, la buona notizia è che abbiamo buone probabilità di venire a capo del nostro problema, ma mettiamoci nelle condizioni di farci aiutare, quindi se avete risposto alle domande della nostra scheda e volete un aiuto, un consiglio dal professor Barbanti, chiamateci all'800 24 00 24. Nell'ultima parte della trasmissione dedicata alla salute, quindi subito dopo il GR, spazio alle vostre domande. Vi aspettiamo, tra poco chiamate e pensate alla vostra testa. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Cuore e denari. Siamo tornati insieme a Cuore Denari, bentornati, benvenuti, se vi siete collegati solo ora con noi, abbiamo in linea il professor Piero Barbanti, primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana di Roma. Professore, è ancora con noi? Sì. Come no? Eccomi qua. Come si può perdere questa straordinaria occasione di stare con Deborah e Nicoletta e soprattutto con gli ascoltatori di Cuore Denari che oggi invitiamo a raccontarci il loro mal di testa? Abbiamo Jessica da Latina che ci aiuta con il suo caso. Buongiorno Jessica. Buongiorno a tutti voi. Allora, io sono Jessica e ho 26 anni e soffro di emicrania aura. Sì. Diciamo che il primo attacco l'ho avuto all'età di 6 anni e da lì per me è iniziato un percorso abbastanza travagliato, in quanto per me l'emicrania annienta completamente, nel senso che devo stare a un riposo totalmente al buio, non posso sentire rumori, non posso vedere luci. Le danno fastidio, immagino, anche gli odori? Esatto, tutto. Quindi per me è un stato che mi annienta completamente, quindi non posso andare avanti e trascorrere la mia giornata come certo. Di solito dovrei trascorrerla. Quindi parlando con il mio professore che mi sta seguendo da un po' di anni a questa parte, il quale mi ha proposto tantissime terapie, anche con integratori alimentari, sì. Togliendo così per un periodo anche farmaci, e tra cui anche un antiepilettico che ho preso per un periodo di tempo, perché si era riscontrato appunto che un antiepilettico potesse dare giovamento, diciamo così. Infatti viene utilizzato come terapia preventiva. Venendo alla domanda, Jessica... Sì. Sì, allora io vorrei sapere dal professore, parlando appunto con il mio professore, stavamo anche perché ecco io mi sposerò Jessica, tra un anno. Sì, quindi, auguri, ma la domanda è... Grazie. Sì, allora niente, la sua domanda? Sapere dal professore, è per caso possibile che una gravidanza migliorerebbe o addirittura annienterebbe l'emicrania? Ok, sarebbe bello. Professor Barbanti, una storia a lei familiare, no? Perché immagino storie come Jessica si presentino con una certa frequenza, purtroppo, e soprattutto anche perché l'emicrania è femmina. Quali indicazioni può dare a Jessica? Doppia indicazione: se Jessica avesse sofferto o soffrisse anche di emicrania senza aura, a partire dal secondo trimestre in genere migliora in maniera molto netta. Se Jessica soffre di emicrania con aura, il miglioramento in genere non c'è. C'è da dire però che i soggetti che soffrono di emicrania con aura hanno con molta maggiore frequenza anche un disturbo concomitante di ansia che li fa vivere in maniera drammatica un disturbo che è già di per sé molto disabilitante. Quindi in questo caso forse si sommano due aspetti, la disabilità del disturbo e la disabilità anche dell'apprensività, che è una caratteristica tipica ad un cervello scoppiettante, qual è quello con una marcia in più dei soggetti con aura. Andiamo ad Alessandro da Mantova e poi a Leonardo da Firenze. Alessandro, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutte voi, buongiorno al professore. Il mio problema è questo, mal di testa parte alla notte verso le 3, le 4, sfogandosi partendo dalla base del collo e abbracciando praticamente tutto il resto della nuca, mi abbandona, se non prendo analgesici, se non prendo altri dolorifici, verso le 5 del pomeriggio, del giorno successivo naturalmente. Non tutti i giorni. Infatti, ogni 10-15 giorni comunque è un attacco che alcune volte, anche se faccio un lavoro non particolarmente attaccato a delle macchine, sono un antiquario, ma però devo fermarmi, devo un attimino rallentare il mio ritmo lavorativo. Grazie Alessandro. Professor Barbanti? Siamo a febbraio, non più a gennaio, ma l'emicrania ven di notte, come la famosa Befana. E attenzione però, la notte dell'emicrania comincia solitamente dalle 4 alle 6 e attacchi che comincino nel pieno della notte, e quello di Alessandro mi sembra in realtà non nel pieno della notte, 3-4 ancora ci siamo, potrebbe voler dire invece una cefalea da ipertensione arteriosa, però... Se devo puntare quindi una fiche secca... Quindi mi scusi professore, se abbiamo mal di testa alla notte, magari nella prima parte della notte, controlliamo la pressione arteriosa. Sì, il mal di testa comincia non 4 di notte, 5 di notte, ma l'una alle due di notte, beh, controlliamo la pressione. Se dovessi giocare una puntata secca sulla ruota di Mantova, che non c'è, direi emicrania, perché compare periodicamente, perché dura diverse ore, perché è disabilitante e perché l'emicrania viene di notte nella maggior parte dei soggetti. Abbiamo Leonardo da Firenze, poi passiamo il microfono a Deborah perché parliamo di paure. Leonardo, buongiorno. Non abbiate sì, paura buongiorno. A chiamarci. Buongiorno Leonardo. Buongiorno a tutti. Ci dica. Senta, il mio problema è questo. Praticamente ho questi mal di testa molto frequenti, diciamo quasi tutte le settimane, o se non proprio tutte le settimane, diciamo una settimana sì, una settimana no. Questi mal di testa che però non sono dei mal di testa, spesso non sono dei mal di testa forti, sono dei fastidi. Che sì, nascono, insomma, sente la testa, come si dice, sì, Leonardo, no? Questo fastidio, che tra l'altro me li sento proprio che mi arrivano piano piano. E poi monta il dolore. Sì, diciamo è monta, però non ma non diventa mai così invalidante, però c'è. Sì. Professor Barbanti, non abbiamo il dolorimetro, ciascuno di noi poi ha una percezione diversa, no? Un grado di sopportazione diverso del dolore, ma sicuramente questo fastidio doloroso, questa tensione dolorosa alla testa come Leonardo ci descrive, che tipo di mal di testa potrebbe essere, quali indicazioni potrebbe dare al nostro amico? Due possibilità. O un'emicrania in fase di cronicizzazione, l'emicrania è un dolore che quando origina è solitamente raro e violento, ma quando aumenta di frequenza perde di potenza, sì. Oppure una cefalea di tipo tensivo, cioè il casco, il peso, il cerchio, la testa, frutto dello stress psicofisico che raramente poi sono separabili perché di solito vanno assieme a braccetto. In entrambi i casi situazioni curabili rivolgendosi a un medico specialista. Professore, nel salutarla, se mi viene mal di testa, anche se raramente, o male, cosa devo fare? Prendo il farmaco, stringo i denti e resisto e aspetto che passi da solo, provo a bere un caffè, un bicchiere d'acqua. Come si gestisce il dolore? Perché tante teste, tante idee. Se uno ha mal di testa rari, deve prendere analgesico ai primi sintomi perché l'acquazzone è in arrivo e ci rischiamo di riparare troppo tardi. Se non abbiamo un farmaco, certamente una dose di 50-100 mg di caffeina, cioè un caffè non napoletano, un espresso doppio, può essere un buon rimedio. E invece, la buttiamo lì proprio in conclusione, ci sono studi che dimostrano come prevenzione che aggiungere 1,5 litri di acqua oligominerale al giorno al nostro normale introito è un elemento per ridurre la severità e la frequenza degli attacchi. E questo ci costa poco, fa molto bene alla nostra salute, saranno contenti urologi, nefrologi, dermatologi, chi più ne ha più ne metta. E quindi sarebbe facile, no? Sconfiggere e prevenire il mal di testa come bere un bicchiere d'acqua, direi un pochino di più perché 1,5 litri saranno almeno 8 bicchieri d'acqua, ma grazie professor Barbanti per questo consiglio prezioso, alla prossima. Grazie e complimenti, e buona giornata. Buona giornata professor Barbanti, grazie. Niente più paura, vedi? No, infatti. Allora cambiamo argomento, e però qualche paura stamattina, dobbiamo tornare ad affrontarla dopo le numerosissime che abbiamo già scandagliato ed analizzato attentamente ieri. Allora, se dovessimo scegliere fra tutte le domande che ci arrivano in radio, la più frequente delle ultime settimane, dovremmo dire per forza che ognuno di noi, anche solo per un attimo, si è chiesto almeno una volta: la mia banca è sicura? Te ne sei accorta, no Nicoletta, quante volte abbiamo affrontato questo argomento? Le paure degli italiani con l'otto volante delle borse, particolarmente forte da inizio gennaio, anche se in realtà i mercati hanno cominciato a ballare un po' più in sordina dall'inizio della scorsa estate, appunto queste paure degli italiani si sono materializzate con questo spettro. La banca che fallisce, con essa si volatilizzano tutti i nostri soldi. Una considerazione che alla fine è anche naturale, alla luce per esempio delle vicende di novembre, dobbiamo ancora richiamare alla memoria il decreto salvabanche, anche la situazione in cui si sono trovate migliaia di famiglie con i risparmi azzerati nel giro di una domenica pomeriggio. Sono tempi complicati per i risparmiatori, però, come dicevamo anche ieri, sono tempi che bisogna gestire. Il primo modo per farlo è conoscere quello che affrontiamo. Noi da molti mesi lo facciamo ogni giovedì con Investire Informati. Adesso raddoppiamo il nostro impegno grazie a questa nuova iniziativa del Sole 24 Ore. Da oggi, per 15 settimane, ogni martedì parte il corso pratico di educazione finanziaria i tuoi soldi e si parte proprio con il tema gestire le paure. Allora, cosa fare per capire i rischi che corriamo? Quali sono le regole del gioco della finanza? Perché nel nostro cervello scattano certe emozioni e certi sentimenti quando dobbiamo parlare del nostro denaro e del nostro risparmio? Con chi parleremo di tutto questo? Intanto Stefano Elli, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, una delle tante firme che vediamo comparire stamattina sulla guida. Stefano, ben ritrovato. Buongiorno a tutti voi. Si occupa peraltro di uno dei capitoli che mi verrebbe da definire tra i più divertenti, ma c'è poco da ridere quando si legge di italiani e truffe finanziarie, per cui poi ve ne racconteremo le ultime, quelle che sono state probabilmente le più famose, e cercheremo anche di dare qualche istruzione per difendersi dai truffatori finanziari in agguato. E poi, per scandagliare invece i meccanismi così delicati e contorti del nostro cervello quando questo deve prendere delle decisioni economiche, naturalmente abbiamo invitato colui che sa più di tutto su questo argomento in Italia, Matteo Motterlini, professore ordinario di filosofia della scienza all'Università San Raffaele di Milano, che intanto saluto. Buongiorno professor Motterlini, grazie. Buongiorno. Buongiorno a voi e grazie a voi. Lo abbiamo tirato fuori dalle tesi che doveva appunto gestire questa mattina con i suoi studenti. Il suo campo, per chi non lo conoscesse, l'economia cognitiva, la neuroeconomia, la finanza comportamentale, ha scritto tanti libri di successo, fra cui Trappole mentali, Economia emotiva, più di recente La psicoeconomia di Charlie Brown, Strategie per una società più felice. Allora, per i nostri ascoltatori il numero verde è sempre lo stesso, è l'800 24 00 24, ma stamattina vi facciamo una richiesta precisa: vi chiediamo di dirci qual è la paura economica che sentite di più. Per aiutarvi abbiamo preparato una scheda che ne elenca alcune. Sentiamo. Quando pensate ai vostri soldi, cosa vi spaventa maggiormente? L'eventualità di rimanere senza lavoro? Quella di non riuscire a pagare le tasse? Di non rimborsare il mutuo e quindi di perdere la casa? Temete di aver fatto un investimento sbagliato o che non rende quanto ci si aspettava? Le notizie economiche vi stanno facendo venire il sospetto di abitare in un continente fragile che rischia di spaccarsi? Avete paura che la vostra banca possa fallire? Paura di essere truffati? Paura di una bolletta molto salata e del tutto inattesa? Oppure ciò che vi fa stare peggio è la convinzione che non riuscirete mai ad andare in pensione? Probabilmente questo elenco potrebbe essere ancora più lungo, ma insomma abbiamo cercato di sintetizzare quelle che immaginiamo possano essere in questo momento le paure economiche più ricorrenti, e le 12 vedremo quale risulterà essere la più gettonata. Naturalmente diteci anche perché la scegliete, e se avete una definizione da darvi come risparmiatori: vi ritenete aggressivi o previdenti, moderati, ossessionati dal rendimento, del tutto disinteressati dei temi finanziari? Vi ritenete vittime di una finanza incomprensibile, perché poi la finanza e l'economia si raccontano molto male, o vi mettete in gioco per capire come gestire la patata bollente della finanza personale? Commenteremo tutte le vostre storie, insomma abbiamo dato una marea di tanti input, stimoli, direi. Certo. E quindi partiamo subito però con un po' di ABC. Stefano, facile a dirsi che dobbiamo vincere le paure, ma quando parliamo di economia e finanza ci ricordiamo molto bene che viviamo in uno stato perenne di crisi almeno da 2007-2008, e quindi è difficile non lasciarsi condizionare. Che tipo di suggerimenti pratici troviamo nella guida di oggi? Come si articola? Allora, sono innanzitutto consigli pratici per tutto ciò che riguarda il nostro rapporto quotidiano con i soldi. Dalle pensioni, assicurazioni, dal rapporto con i promotori finanziari a quello con lo sportellista della banca, e per finire con il compilare l'assegno. Sembra banale, ma molti non sanno ancora adesso come si fa a compilare un assegno. E poi una cosa che abbiamo notato è che ci sono molti... Io sono stupita che ancora circolino tanti assegni, ti devo dire la verità. Comunque questo è un mio anche questo è vero. Chiusa parentesi. C'è una nota caratteristica abbastanza interessante, che è evitare di fingere di avere capito il funzionamento di un prodotto finanziario per mostrarsi all'altezza di chi ce lo propone, che è uno sbaglio psicologico che fanno in moltissimi. In altri termini, l'obiettivo primario di quest'opera è quello di attenuare il disorientamento che molti risparmiatori stanno provando rispetto ai cambiamenti importanti che stanno avvenendo in questo periodo, a cominciare dal settore bancario. E vorrei sottolineare in particolare lo sforzo che sta accomunando tutti noi, a cominciare da chi coordina la collana, cioè Nicola Borzi e Marco Conte, sì, che è quello della semplificazione del linguaggio. Uno sforzo che è soprattutto diretto a rendere accessibile e fruibile questa guida, non soltanto ai lettori abituali del Sole 24 Ore o agli ascoltatori di Radio 24, che evidentemente di queste cose se ne intendono più di altri, ma anche chi si accosta a questi temi, spinto soprattutto da questo disorientamento rispetto a temi complessi come quello delle banche in difficoltà. E devo dire che a giudicare dai primi segnali l'iniziativa sta dando qualche risultato, visto allora, che alcune edicole mi dicono che il sole è in esaurimento. Ah, è già andato a fare il controllo delle edicole, Stefano. Certo. Le ho visitate 4-5. Non è un campione... No, però allora, già la racconta. Infatti, allora, il tema banche è naturalmente il più gettonato del momento in varie modalità e quindi questa guida proprio al primo capitolo parte con questa analisi intitolata Conti correnti in sicurezza. Si parte con il tema delle nuove regole europee sui salvataggi, si parte proprio da questa domanda che si fanno in molti. Ho sentito dire che le banche italiane non sono più sicure. È vero, certamente, magari Stefano, un flash, sono certamente per certi frangenti meno sicure. Devono essere... L'Europa chiede che siano più sicure per naturalmente poi essere più sicuro il rapporto con la propria clientela. E il problema, secondo me, secondo quello che ho appurato, insomma, è che il bail-in ha un po' introdotto uno schema di rottura rispetto alla percezione genetica del sistema bancario in Italia. In Italia si diceva che le banche non possono fallire. L'attività della Banca d'Italia di vigilanza era soprattutto tesa a salvaguardare il sistema bancario. Adesso qualcosa è cambiato. Va detto che i titoli azionari sono sempre stati, a prescindere dal bail-in, capitale di rischio, e quindi chi sottoscriveva delle azioni evidentemente era consapevole del fatto delle possibili oscillazioni dei titoli. Quindi si tratta di affrontare un tema che gli psicologi sociali chiamano dissonanza cognitiva, più che altro. Credo che il professor Motterlini Allora, gli diamo subito, come dire, la parola, visto che l'assist gliel'abbiamo offerto, professor Motterlini. Peraltro, prima di indagare sul tema che a lei è più caro, su come si possono prendere decisioni giuste in momenti così difficili, cosa fa il nostro cervello quando vede tutto quello che vediamo? Mercati sul lotto volante, obbligazioni con i rendimenti sotto zero, banche sull'orlo di una crisi di nervi e quant'altro. Però mi chiedevo se lei avesse avuto modo, proprio in queste ultime settimane, di osservare qualcosa di particolarmente interessante. Ci racconta qualcosa di nuovo la finanza comportamentale alla luce dei fatti recenti? Qualcosa di molto interessante, anche molto paradossale se volete, cioè che la novità è che non c'è nessuna novità. Anche questa volta abbiamo assistito agli stessi fenomeni psicologici che si vedono sempre: volatilità dei mercati, aumenta l'avversione alle perdite, fatichiamo a trafficare col rischio e l'incertezza e passiamo da vedute a lungo periodo a cortissime vedute. Quindi ancora una volta ci facciamo cogliere impreparati dalla volatilità dei mercati, sappiamo che magari facciamo un investimento per 5-10 anni in azionario, ma non possiamo non tremare quando vediamo questi crolli, e tutta questa volatilità ancora una volta è detonatrice di che cosa? Di scelte irrazionali. L'assist di Stefano è molto bello e sono molto d'accordo con lui. Non so se cambia il rischio reale del fallimento di una banca, non siamo ancora in grado forse di valutarlo. Certo che cambia completamente la percezione del rischio, e come sappiamo noi ci facciamo influenzare più dalla percezione dei rischi che dai rischi obiettivi. Abbiamo molto più paura di prendere un aereo se vediamo un aereo che cade al telegiornale la sera, ma continuiamo magari a guidare la macchina sulla Milano-Brescia, che è oggettivamente più rischioso che prendere un volo aereo. Professor Motterlini, noi abbiamo invitato i nostri ascoltatori stamattina a raccontarci qual è la paura economica che sentono pervadere il loro fisico in questo momento, proprio alla luce dei fatti economici che raccontiamo tutti i giorni: rischio banche, mercati finanziari che vanno appunto sul lotto volante, come dicevo prima, e tanti altri argomenti. Lei che generalmente sa cosa scatta nel cervello di una persona di fronte ad una determinata provocazione di carattere economico, sulla base dell'elenco che abbiamo sentito prima, probabilmente lei avrebbe preparato un elenco molto più accurato, dettagliato e certamente migliore del nostro, ma immagina già quali potranno essere le risposte più diffuse degli ascoltatori, più gettonate? Ah, questa è una domanda rischiosa, ovviamente fare previsione è molto difficile e non ho la sfera di cristallo, però quello che ho è una strana sfera di cristallo che si chiama risonanza magnetica funzionale e permette agli strani ricercatori come noi di guardare dentro il cervello delle persone mentre prendono decisioni finanziarie. E pensi che io, se avessi il suo cervello sotto risonanza magnetica, potrei prevedere, prima ancora che lo sappia lei, se comprerà un'azione o una obbligazione, e quindi sappiamo effettivamente qualcosa dei meccanismi che precedono le nostre scelte finanziarie. In questo caso io non lo so di che cosa hanno più paura le persone in questo momento, probabilmente di quello che sentono al telegiornale la sera, ma so che troveranno sicuramente nuovi modi per declinare i vecchi sentimenti, cioè avranno trovato nuovi modi per declinare la loro ansia, la loro paura, e magari in questo momento avranno paura non soltanto dei mercati che crollano, magari anche che i loro soldi non sono al sicuro. Allora, infatti, sono un po' le paure che ci racconteranno tra poco Claudio da Macerata e Paola da Latina. Intanto invito ancora gli ascoltatori a comporre il numero verde 800 24 00 24. Quando pensate ai vostri soldi, come vi cosa vi spaventa maggiormente? Come gestite la paura finanziaria? A tra poco. Cuore e denari. Contrariamente a quanto siamo abituati a credere, le decisioni economiche che prendiamo ogni giorno non riguardano solo il denaro. Sono anche dettate da motivi immateriali, ma non per questo meno influenti e concreti, come evitare le perdite o i rimpianti. Coinvolgono la paura, la rabbia, la frustrazione, l'invidia, l'orgoglio, l'onore, l'ingiustizia e, mai come negli ultimi tempi, la mancanza di ottimismo e di fiducia. Professor Motterlini, ha riconosciuto questa lettura? Aiuto, sì. È tratta dall'introduzione del suo libro La psicoeconomia di Charlie Brown. Devo fare solo una piccola parentesi: ho fatto un rapporto di cambio fra euro e sterlina un po' improvvisato. In realtà per un euro ci vogliono 78 pence, no? Ho detto invece che la sterlina valeva 78 centesimi di euro. Fatto il contrario. Chiusa parentesi, okay. Insomma, abbiamo fatto questa precisazione prima che gli ascoltatori la facciano per noi. E allora, quindi, naturalmente noi ci accorgiamo subito quando diciamo qualche cosa che non funziona. 800 24 00 24, intanto il numero verde al quale potete continuare a raccontarci qual è la paura economica che sentite di più. Abbiamo lanciato anche un sondaggio su Twitter e su Twitter Marco ci scrive: la mia paura è non avere sufficienti risorse per sostenere i miei familiari nella loro vecchiaia. Questa è una considerazione veramente bella che meriterebbe, Marco, un'intera puntata dedicata solo a lei. Allora, volevo sentire un'ascoltatrice perché ci dà il modo di affrontare il capitolo di Stefano Elli sulla guida di oggi, I tuoi soldi, vincere le paure. Paola, benvenuta da Latina. E buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, sa, la mia paura è quella di non recuperare il denaro che io ho investito in tanti anni tramite un broker finanziario. Ecco, quella è la mia paura. Perché ha paura? Perché li sta gestendo male questi soldi, Maria? No, Paola? Perché i soldi erano su un conto corrente, anzi su due conti, inizialmente con un conto corrente e poi su due, quindi non erano stati così, erano sul conto corrente bancario. E lui a un certo punto, io gli ho chiesto del denaro per pagare una casa che avevo comprato e mi ha detto che questo denaro io l'avevo perso perché i soldi erano a rischio, erano delle azioni azionario puro e praticamente questi soldi sono spariti, tutti. Io certamente l'ho denunciato alla Procura della Repubblica e poi la Procura della Repubblica ha mandato comunicazione alla Guardia di Finanza che mi ha chiamato sia me che lui, che questo broker che io ho denunciato, e io ho fatto il punto con i finanzieri, abbiamo visto che aveva rubato tutti i miei soldi, lui ha raccontato un sacco di bugie e siamo a oggi. Ascolti Paola, ma è una, sì, mi pare un raggiro, una truffa vera e propria, pertanto è corretto aver fatto intervenire la Finanza, la Procura della Repubblica, sì, l'autorità giudiziaria tutta. Detto questo, è rimasta coinvolta solo lei o le risulta che ci siano anche altre persone? Perché a questo punto magari vale la pena indagare un po' di più, magari Stefano Elli, siccome questo è il suo mondo, lo faremo indagare un po' meglio. È stata l'unica Paola oppure ci sono anche altre persone coinvolte, a quello che le risulta? Guardi, loro, cioè questo broker e la moglie, che poi sono amici praticamente, io mi sono fidata perché questo è un tizio che mi aveva conosciuto. Spero che abbia rapporto, abbia rotto l'amicizia, Paola, perché... Fiduciario, certo, c'era un rapporto fiduciario. Se quindi, lo ha denunciato. Sì, ho denunciato alla procura. Quindi, guardi, mi risulta che sono stata coinvolta soltanto io. Tra l'altro io e mio marito non c'entra niente, perché a parte che abbiamo la separazione dei beni e quindi sì, abbiamo dei dei conti separati. Vabbè, insomma, Paola, guardi, no, purtroppo non riesco a sentire tutto il suo caso, mi dispiace molto, perché vorrei darle tutto lo spazio necessario, tutta la dignità necessaria appunto ad affrontare questa situazione. Detto questo, magari se ci vuole ci scriva un po' qualche dettaglio in più e magari così facciamo un po' Sono ben lieto analizzare di Stefano Elli questa situazione. Signora. Detto questo, Stefano, il tema della truffa finanziaria, adesso ci abbiamo aggiunto già ai pericoli delle borse, all'incertezza dei mercati, alla vulnerabilità delle banche, ci abbiamo aggiunto anche questo ulteriore tassello. Adesso non è che stiamo raccontando di tante truffe ultimamente, per fortuna, però la nostra storia finanziaria è stata costellata, ahimè, anche di queste vicende. Tu racconti, ribadisci il caso dello schema Ponzi, i Madoff americano, ma se dovessimo ricordare un po' le principali italiane, che Guarda, sintesi dovremmo rifare? Allora, innanzitutto, proprio nell'area di Latina, visto che la signora che telefonava era proprio di quella zona là, c'è stato un caso di una cooperativa che si chiamava Cofiri, che era, io non so se il broker in questione fosse riferibile o riconducibile a quella società. Ah, hai comunque visto mai. in quella situazione c'è stata proprio una bomba a orologeria che ha colpito centinaia di risparmiatori. In alcuni casi poi c'è stato anche un intreccio tra le banche coinvolte nella vicenda dei salvataggi delle quattro grandi banche. In un caso particolare, il caso dei Julemar di Toller del Greco, un caso abbastanza eclatante per analisi quantitativa sia di risparmiatori coinvolti, 12-13 mila, e anche di milioni di buco, perché si parla di una cifra oscillante tra gli 800 e i 900. Che cos'è la dei Julemar? È una compagnia di navigazione in un settore e in un'area in cui quel tipo di attività è core, è assolutamente centrale per l'economia di quella zona. Torre del Greco ha 92.000 abitanti circa, e di questi 13.000 circa sono rimasti colpiti da questa sorta di obbligazione non obbligazione, che non si è ancora capito bene di che tipo di carta si trattasse. In questo caso, appunto, Cassa di Risparmio di Ferrara, che è una delle quattro banche coinvolte insieme a Carichieti. Cioè, Banca da Torre del Greco a Ferrara, esatto. Come ci arriviamo? Ci arriviamo probabilmente attraverso alcuni manager bancari di Ferrara che erano della zona. Gennaro Murolo mi sembra che fosse il direttore generale di Ferrara in quel periodo, e pensò di affidare anche la dei Julemar, oltre ad altre, diciamo, imprese che poi sono, diciamo, alcune sono finite proprio male, tipo la società di costruzione della famiglia Siano. Nel capitolo che ho cercato di fare, poi passo in rassegna tutta un'altra serie di raggiri o anche di situazioni particolari, come per esempio quella del periodo dell'atipico, la sorta, quel tipico e atipico modalità di truffare poi alla fine la gente attraverso certificati immobiliari, di luoghi fisici, di villaggi turistici il cui valore veniva gonfiato e che poi coinvolsero migliaia di persone per migliaia. Sono casi di peraltro veramente dei quali si parla sempre pochissimo, perché io nella storia, insomma, ancora rimbomba nella nostra testa Cirio, Parmalat, l'Argentina e poi pochi altri. Adesso abbiamo il caso delle ultime banche, ma poi ci sono micro casi, e non tanto micro peraltro, a giudicare dal numero dei risparmiatori coinvolti, sparsi sul territorio, che non riescono mai a guadagnare la ribalta della cronaca nazionale, eppure, come dire, l'essere gabbati dal punto di vista finanziario veramente sembra un gioco da ragazzi. Io esatto. Mi sembra di banalizzare tanto il nostro ragionamento di questa mattina. Professor Motterlini, è questione di trappole mentali anche questa. La questione anche della nostra amica che si affida, la nostra Laura da Latina, che si affida ad un amico, anche lì la trappola mentale della fiducia, no, ci porta qualche volta sulla strada, direi, completamente sbagliata. Allora, la trappola che avete descritto voi, obbligazioni Cirio Parmalat, è proprio da manuale, è la trappola numero uno dei manuali di finanza comportamentale, la trappola della familiarità. Noi riteniamo che ciò che è familiare debba per questo essere più sicuro, il che non è affatto vero. Noi non conosciamo, crediamo di conoscere fondamentali dell'azienda soltanto perché ce l'abbiamo sotto casa, ma non sappiamo niente, quindi non abbiamo nessun strumento per conoscere il reale rischio di quel titolo. Eppure il fatto che è lì sotto casa, c'è familiare, debba per questo essere sicuro. Il passaggio dalla familiarità al titolo sicuro evidentemente è una trappola clamorosa. Sull'altro caso, francamente, non mi sento di spendermi, perché bisogna vedere caso per caso. Senta, però, Stefano Elli, nel capitolo appunto dedicato agli italiani vulnerabili alle truffe, dice anche: conoscere gli errori commessi da altri nel passato può aiutare ad evitarne di nuovi. È così? Non ci sembra sempre tanto vero? No, invece a me piace e credo che sia vero, perché noi sappiamo che anche da alcuni studi abbastanza raffinati, sempre guardando dentro il cervello, noi abbiamo scoperto che in particolare riguardo all'emozione del rimpianto, che è una cosa che determina moltissimo le nostre decisioni, io dico sempre che più di massimizzare la nostra utilità o tener conto del rischio e rendimento, così come ci dicono i modelli della finanza razionale, noi non massimizziamo l'utilità ma minimizziamo il rimpianto, cioè spesso prendiamo decisione per non provare rimpianto poi. Ecco, quello che noi abbiamo visto è che il rimpianto provato da qualcun altro per un investimento sbagliato può rendere noi meno propensi al rischio nel nostro investimento successivo. È un po' come se l'emozione del rimpianto altrui diventasse anche nostra. Quindi, secondo me, raccontare casi altrui può essere una strategia, come dire, di comunicazione, di educazione finanziaria efficace. Poi magari non si fa quell'errore lì, però se ne fanno altri, professor Motterlini, perché non è che poi, come dire, il fatto di apprendere di situazioni altrui ci mette al riparo, come dire, da altre situazioni possibili. Per esempio Stefano, sempre nella guida di stamattina, racconta che un altro gettonatissimo sistema per imbrogliare il prossimo è il Forex. E qua di casi invece ce ne arrivano spesso e volentieri di persone che, per avere, come dire, accesso ad un guadagno facile, si lasciano abbindolare dal consulente che ti dice: ti faccio investire sul mercato delle valute e tu vedrai, e poi ecco, track, te crolla la sterlina e i soldi se ne vanno via appunto con la Brexit. Quando lo fanno veramente l'investimento. Esatto, perché il tema è proprio, professor Motterlini, sì. Sì, ma è giustissimo, ma si sa apposta, a parte che molte di queste pubblicità voi li trovate su internet e ormai è noto da tutta la letteratura che tutto quello che su internet è più veloce e stimola scelte di tipo automatico, compulsivo e non deliberato, quindi è ovvio. Poi cos'è che fanno queste cose? Fanno leva su una parte della nostra, per cui prendiamo decisione, che è attivare i centri della ricompensa, i centri del piacere, quindi noi mettiamo sotto profilo i rischi che possiamo correre, abbiamo tutti i nostri centri della ricompensa, del piacere attivati per il guadagno che potremo ottenere, quindi teniamo completamente dissociato rischio e rendimento, concentrandoci tutto sul rendimento che imparare a fare 4 giochini col Forex potrebbe arrecarci, ed ecco che le persone si rovinano e si fanno male. Ho letto la guida, non ci crederà Deborah, ma io l'ho già letta la guida che lei mi ha mandato ieri sera in PDF. Gliel'ho mandata, gli mancherebbe pure. È scritto in modo chiarissimo ed è molto utile. Ed è ovvio che informare è meglio che non informare, ma se posso permettermi di dare il mio piccolo contributo non basta. Insieme a capitoli come non farci fregare e investire in azioni, secondo me ci vorrebbero anche capitoli su come investire in emozioni, cioè conoscere meglio come le nostre emozioni spesso ci portano fuori strada. Perché il vero rischio non è il grande fallimento di una banca, il grande fallimento di una banca è veramente poco probabile. Ciò che rischia di lapidare i nostri risparmi sono tante piccole, infinite decisioni sbagliate quando entriamo e usciamo dal mercato. Come per esempio, non lo so, mi viene in mente un'altra delle situazioni molto ricorrenti, adesso vado al traffico, con le quali ci capita di confrontarci quando affrontiamo questi argomenti in radio, e dire: insomma, ho investito tutto da pochissimo e sto perdendo molto denaro. Allora lì, come dire, l'errore è intanto aver fatto un investimento in un asset rischiosa che era abbastanza naturale che scendesse così come potesse salire, no? Per cui se tu non sei in grado di affrontare un'oscillazione di questo tipo, è chiaro che devi metterti su un altro strumento, devi condividere un obiettivo molto chiaro con il tuo consulente. Questo è un altro terreno di dibattito sempre abbastanza anche, come dire, ricercato tra noi e i nostri consulenti. Detto questo, adesso traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Cuore e denari. Le crisi economiche sono crisi in un senso più ampio di quello finanziario, ma per lo stesso motivo i meccanismi che muovono le nostre decisioni in questo campo sono strumenti potentissimi per intervenire su problemi molto più vasti dell'andamento degli indici di borsa, del PIL e del debito pubblico. problemi che da sempre si pongono i governi e i popoli. Per esempio, la convivenza civile, la giustizia sociale, la soddisfazione dei cittadini e, sì, anche la loro felicità. Anche questo brano è tratto dalla Psicoeconomia di Charlie Brown, Strategie per una società più felice di Matteo Motterlini, che questa mattina è con noi. Peraltro, sai che tutta la squadra di Charlie Brown, proprio l'anno scorso Nicoletta ha compiuto 65 anni, per cui stavo pensando a Lucy, che invecchia veramente senza alcun problema, processo demografico, potremmo affrontare tante anche questioni economiche legate alla storia di questi personaggi così celebri. Non ha nessuna paura delle rughe, non ha nessuna paura di andare in pensione, si conserva sempre perfettamente, quindi una piccola declinazione, cuore leggero, al femminile. Allora, insieme a Matteo Motterlini con noi è Stefano Elli di Plus 24 del Sole 24 Ore, che è venuto a presentarci questo lavorone che il Sole 24 Ore mette a disposizione da oggi dei suoi lettori, un corso pratico di educazione finanziaria. Vincere le paure è il titolo del primo numero dei tuoi soldi. Allora, Claudio da Macerata, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io sono un ex bancario. Sì. E vorrei fare una domanda del tutto provocatoria. Sì, vediamo. Ci tremano già i polsi, Claudio. No, perché sono in viaggio e sto guidando. Dicevo, vorrei sapere quali sono le motivazioni che oggi dovrebbe indurre un risparmiatore semplice, sì, non speculativo, a tenere i soldi in banca. Visto che i rischi, secondo il mio punto di vista, oggi sono esclusivamente a carico dei risparmiatori. Mm. Dove li vorrebbe tenere, Claudio? Là in cassaforte, sotto il materasso, fare delle piccole valigette e portarli in Svizzera? Quale sarebbe l'alternativa rispetto a questa? Ma vede, ripeto, io ho fatto una domanda che è appunto provocatoria. Vuole fare la provocazione. La provocazione è questa, perché farsi vedere bruciare i soldi da gestioni bancarie, che purtroppo qui nella nostra zona io conosco molto bene, i casi di Banca Marche, la soddisfazione di bruciarli da solo. Vabbè. Allora, Claudio, in attesa che faccia questo falò a Macerata del suo denaro, Stefano Elli, vabbè, insomma, devo dire che anche questa, poi provocazione o no, è una domanda che in molti, magari non consegnandola alla radio, probabilmente molti, anche delle persone che sono vicine a noi, si sono fatti. Ma per quale motivo devo andare in banca a darli a loro? Perché tanto non ho mai risposte chiare, anche se io li diversifico, come spesso suggeriamo di fare, comunque in questo momento tutti gli asset su cui posso mettere il mio risparmio perdono tutti quanti, nessuno rende tanto, e comunque ecco, c'è questo rischio che viene fatto gravare molto sul singolo individuo per un possibile fallimento bancario. Insomma, i dubbi sono molti. Che tipo di risposte possiamo dare? Ma che alternativa reale c'è? Appunto, il materasso, la cassa alla di sicurezza. Il problema centrale è casomai farsi parte attiva e disciplinata nel controllo severo di quello che si sta facendo. Io ho visto dei casi di risparmiatori, di investitori in titoli di Veneto Banco, Banca Popolare di Vicenza, che avevano un portafoglio al 97% puntato su titoli della Banca Popolare di Vicenza oppure di Veneto Banca. Assolutamente incomprensibile e inaccettabile anche dal punto di vista della logica del buon padre. Quindi di famiglia. Quindi farsi parte attiva e non aspettare che faccia tutto la banca e poi, come dire, giustificare il nostro comportamento magari dicendo è stata tutta colpa sua, non ha fatto il mio interesse, eccetera. Professor Motterlini, appunto, a proposito di questo argomento, il suggerimento più frequente che i risparmiatori ricevono, che diamo con i nostri consulenti, è quello della diversificazione. Invece, appunto, Stefano lo ricordava poco fa, tendono proprio a fare quasi sempre l'esatto opposto, concentrare risparmi in pochi strumenti che considerano assolutamente sicuri. Lo abbiamo proprio visto con il caso delle quattro banche, moltissime persone detenevano tutto il loro denaro in un'unica obbligazione bancaria. Ma perché il messaggio della diversificazione è così difficile da trasmettere? I casi sono due: o non lo conoscono e quindi bisogna informare, o lo conoscono e non lo fanno, e ci sono un sacco di persone che fanno il loro male tutti i giorni. Noi sappiamo che le patatine fritte ci fanno male, eppure continuiamo a mangiarle e ci troveremo col colesterolo fra 10 anni. Non è scontato che se una persona sappia cos'è giusto fare lo faccia anche. Proprio per questo bisogna conoscersi meglio, sapere qual è la direzione nella quale sbagliamo, conoscere quali sono le emozioni che ci portano dalla direzione sbagliata e cercare di contrastarle attraverso un processo che è di consapevolezza. ma in realtà io credo che molte persone vorrebbero diversificare e poi si fanno incolosire, diventano avide. Ah, ma se io metto il 40% su quel titolo, più probabilità di guadagnare, e non pensano invece a come distribuire i rischi e quindi le probabilità che avrebbero di perdere. Quando poi però le cose vanno male, corrono tutti a vendere anche troppo presto quello stesso titolo in cui hanno investito il 40%, perché adesso non pensano più a quanto vorrebbero guadagnare, ma a quanto probabilmente stanno perdendo e potrebbero perdere ancora di più. Allora, volevo ricordare che noi avevamo fatto una piccola scheda in cui abbiamo invitato i nostri ascoltatori ad indicarci qual è la crisi economica personale più grave che gli possa capitare, di che cosa hanno più paura. Devo dire che ci hanno chiamato anche degli imprenditori che ci raccontavano che naturalmente hanno il terrore che l'azienda possa fallire, lasciando anche per strada dipendenti, con tutte le ricadute che possiamo immaginare. Questa piccola scheda l'abbiamo fatta circolare anche tramite Twitter e da questa circolazione è emerso questo risultato di questo sondaggio. Cosa vi fa più paura? Al 32% hanno risposto perdere il lavoro, al 16% che la banca fallisca, al 24% essere truffati, 28% di non riuscire a prendere la pensione. Fabrizio da Perugia, velocissimo prima di salutarci, non so se ce la facciamo in 30 secondi, grazie. Pronto? Sì, sì. Buongiorno. Vada. Buongiorno. Io volevo fare, in questo momento dico, ho messo la testa sotto la sabbia come lo struzzo, perché non ho visto che il mercato proprio, siccome sono abbastanza esposto con dei titoli, sì. Io sono stato sempre un cassettista, diciamo, che ho preso sempre titoli abbastanza... Con belle cedole, eccetera, sì. Ho visto, d'aprile ero sopra del 20% con questi titoli, adesso sono sotto del 20%. Certo, vabbè Fabrizio, insomma è in linea con il mercato, che prima o poi recupererà, abbia pazienza. Matteo Motterlini, io ho banalizzato una sintesi, un suggerimento per Fabrizio, poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Il tema è che quando era più 20% non si voleva liberare di quella posizione, adesso che è a meno 20 arriva l'angoscia. Motterlini in 30 secondi. In 30 secondi? Anche meno, guardi. Dovuto investire prima nelle sue emozioni e poi in azioni. Se non governi le tue emozioni è difficile poi riuscire a governare i tuoi risparmi. E quindi cos'è che ci insegna questa crisi ancora una volta? In 30 secondi questa crisi non è che ci insegna qualcosa di nuovo, ma è un'opportunità per fare che cosa? Per conoscersi meglio e fare meno errori psicologici e cadere meno trappole la prossima volta. Grazie a Matteo Motterlini, a Stefano Elli per essere stati con noi. Il prossimo numero dei tuoi soldi, corso pratico di educazione finanziaria in edicola, martedì prossimo sarà banche clienti rischi, no, sto guardando i capitoli, non me lo ricordo Stefano, non ce l'abbiamo al volo, vabbè ve lo dico domani perché adesso non ho la lista. Grazie a tutti, a domani, buona giornata.